Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 17 gennaio, il sole in regione è sorto alle 7.45 e tramonterà alle 16.50. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Un progetto transfrontaliero Italia-Austria sulle realtà e potenzialità turistiche delle Malghe è stato sviluppato dall'ERSA, che ha creato una serie di momenti di formazione per i malghesi e indirettamente anche per i turisti che frequentano la montagna. È il tema del servizio di apertura, per passare poi al corsivo di Enos Costantini, che tesse una lode al letame ingiustamente accusato di inquinamento. A seguire il nuovo censimento dell'agricoltura, che sta pian piano entrando anche nelle aziende del Friuli Venezia Giulia, e le alterne fortune dell'albicocco, che nella nostra regione stenta ad acclimatarsi. Per la rubrica dell'università iniziamo oggi la presentazione di una serie di tesi di laurea discusse a Udine in tema di orticoltura, e poi ci sarà una new entry per dibattere dei temi del cambiamento climatico e dei suoi effetti su agricoltura e ambiente. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. C'è un progetto Interreg Italia-Austria dedicato alle Malghe, un progetto di cui stiamo cominciando a raccogliere i primi frutti. Si intitola Made Malga and Alm Desired Experience, un titolo metà inglese, un po' di tedesco, italiano, che riassume proprio lo spirito di questa iniziativa. Ce ne parla Simona Rainis, ricercatrice e tecnica dell'ERSA, che lo ha seguito fin dai primi giorni. MADE è questo progetto che ha visto come partnership il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sena Nevea, di Passo Pramollo, il comune di Ermagore, Presegarze e l'ERSA. L'intento e il focus era di contribuire a definire gli indirizzi per valorizzare il valore trasversale dell'agricoltura di montagna. In questo titolo, secondo me, sono racchiusi tutti i concetti più importanti di questo progetto. Innanzitutto, il fatto che ci siano tre parole di tre lingue diverse dà proprio l'idea di questo respiro internazionale dell'iniziativa sperimentale. E MADE significa fare, che è l'acronimo poi di Malga and Alm Desired Experience. Fare cosa? Fare un'esperienza desiderata. Sulla base di questo, le iniziative hanno voluto sia mettere il turista, il fruitore, nella condizione di fare questa esperienza desiderata, al tempo stesso anche di mettere tutti gli operatori nelle migliori condizioni per poter far fare questa esperienza ai turisti. Dietro questo progetto c'è anche un sito internet www.malghefvg.it, un sito dai grandi numeri che testimoniano la riscoperta di questi ambienti. Sì, è il sito istituzionale dell'ERSA, che è stato fatto appunto per le Malghe con un progetto precedente dal nome Divers, e i numeri fanno veramente capire quanto questo comparto finalmente riesca ad ottenere il successo e l'interesse che merita. Nel solo anno 2020 abbiamo avuto 923.000 accessi. Già gennaio 2021, che non è ancora finito, abbiamo avuto 9.000 accessi. Questi accessi hanno avuto un riscontro poi pratico, nel senso che parlando con i malghesi quest'estate effettivamente c'è stata una presenza turistica mai vista, un bisogno proprio di andare in montagna, di vivere un turismo lento, al sicuro e sostenibile. In regione abbiamo 49 malghe registrate per la produzione del latte. Cosa il turista chiede al malghese e cosa il malghese chiede al turista? Abbiamo fatto tante lezioni anche di turismo durante il progetto MADE, nella formazione degli operatori, ed è emerso che il turismo al giorno d'oggi è un turismo di esperienza. i turisti, ma in generale ormai la clientela, ha bisogno di esperienze vere, di vedere come si fa il formaggio, di vedere com'è una filiera agroalimentare. Il Malghese, ma anche tutti gli altri operatori, chiedono ovviamente una forma di rispetto, perché certamente l'accoglienza turistica è importante, però il Malghese è un operatore che offre una multifunzionalità di servizi a tutta la montagna, a tutta la collettività, e quindi è necessario approcciarsi in maniera molto rispettosa. E c'è un sito dedicato anche appunto a questo progetto. Sì, che si chiama www.madeinalms.eu. Un'ode all'etame, non possiamo definire altrimenti il corsivo di oggi di Enos Costantini, che confuta le argomentazioni che accusano di inquinamento lo stallatico. Un tempo si diceva, e qualche sprovveduto lo dice ancora, che il burro fa male. Una menzogna spaziale. Il burro conteneva le vitamine liposolubili, l'acido butirrico e tutto il buono che c'era nell'erba. Ma non poteva fare male, soprattutto perché era poco e prezioso. Ora mi capita di sentir dire che il letame fa male all'ambiente. Una menzogna siderale. Il letame, quello chiamato burro nero, non può far male all'ambiente perché è poco, anzi è quasi scomparso. Esso è una miscela equilibrata di deiezioni animali liquide e solide con materiali vegetali. La miscela perfetta per quel digestore microbico che è il terreno agrario. La paglia fornisce energia ai microbi, mentre le deiezioni forniscono azoto. Ciò che per l'Homo furlanus sarebbe pan e salam. Si sente dire anche che nessuna forma di agricoltura a partire dal neolitico può essere naturale. Quindi qualsiasi agricoltura compromette l'ambiente per definizione. Non è assolutamente vero. Un'agricoltura che non compromette i cicli naturali, come quelli del carbonio e dell'azoto, si può a tutti gli effetti considerare naturale. Il letame semplicemente partecipa al ciclo dell'azoto e quindi non inquina. Non può farlo, sta scritto nei suoi numeri. Un quintale di burro nero ha soltanto 0,5 chilo di azoto. Quindi, anche volendo usarne 500 quintali per ettaro, avremmo un apporto di 250 kg di azoto. Meno della metà di questi sono liberati dalla matrice organica nel corso del primo anno e l'altra metà è diluita negli anni seguenti. Vorrei che qualche azienda sanitaria mi spiegasse dove sta l'inquinamento. Normalmente si distribuivano 250 quintali di letame per ettaro, quindi dividete tutto per metà. Inoltre il terreno non poteva giovarsi del letame ogni anno, quindi dividete per 3 o per 4. Ora il letame quasi non esiste più e il problema dei calcoli non si pone proprio. Diversa cosa sono i liquami da allevamenti industriali, ben diversi. E diversa cosa ancora sono i concimi azotati di sintesi, quali il nitrato ammonico e l'urea. Questi ultimi, peraltro, mai entrati nel mirino della polizia igienico-sanitaria. Ci è lecito ora fare un paragone. Il letame al terreno è come un pasto umano con polenta, formaggio, lidricul, poc e un thai di refosc. Usare nitrato ammonico e urea è come un pasto umano a base di sola grappa. Ecce chiocchis! A molti agricoltori è già arrivata a casa una lettera dell'Istat che annuncia un nuovo censimento dell'agricoltura. Ce ne parla Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. A partire dal 7 gennaio l'Istituto Nazionale di Statistica ha avviato il 7° censimento generale dell'agricoltura, che coinvolgerà in Italia 1.700.000 aziende del settore, delle quali circa 22.000 del Friuli Venezia Giulia. Il precedente censimento risale ormai al 2010 e quello di quest'anno sarà l'ultimo con cadenza decennale. Dal 2022 infatti l'analisi sarà condotta in forma continuativa attraverso rilevazioni dirette semplificate a campione, integrate con informazioni già presenti in altre banche dati, come per esempio i fascicoli aziendali del SIAN o le anagrafi zootecniche. E un censimento continuo è veramente necessario? Assolutamente sì, perché mai come negli ultimi anni abbiamo assistito a variazioni rapidissime all'interno del settore primario. Il numero delle imprese agricole è in continua diminuzione e contemporaneamente aumenta la superficie media aziendale. Crescono le attività connesse come l'agriturismo e l'orientamento a produzioni sostenibili o certificate bio. In vista della nuova PAC, nessuna amministrazione, che si tratti di ministero o di regioni, può pensare di fare una seria programmazione se non dispone di dati freschi e attendibili. Come si svolgono i rilevamenti? Dunque, Istat sta scrivendo a tutte le imprese agricole fornendo le prime istruzioni essenziali. In pratica, come già accaduto per il censimento della popolazione, chi se la sente potrà compilare autonomamente il questionario online utilizzando le credenziali personali fornite nella lettera. Sono richiesti dati tecnici come il tipo di conduzione, l'estensione delle varie colture, la consistenza degli allevamenti, metodi di gestione dell'azienda e loro eventuale multifunzionalità, tipo di manodopera impiegata, commercializzazione. Per assistenza è disponibile anche un numero verde. Questa è l'unica modalità operativa? No, ci sono altre due possibilità. Una prevede un'intervista telefonica da parte di operatori incaricati da Istat, l'altra, che verosimilmente sarà la più comune, prevede la compilazione del questionario presso l'ufficio del proprio centro di assistenza agricola, il CA. Per certi versi dovrebbe essere una pianta molto resistente e prolifica, ma in pratica da noi non è così. Parliamo dell'albicocco con il professor Raffaele Testolin, che ci cura la rubrica di frutticoltura. Capire perché non si riesce a coltivare l'albicocco in Friuli è stato difficile anche per me, che insegno frutticoltura all'università. Mi sono sempre chiesto perché in Friuli non sta bene una specie spontanea di aree fredde del centro Asia. Pensate che l'albicocco è l'ultima specie da frutto che incontrano quelli che salgono sull'Everest e sulle altre vette himalayane. La trovano fino a 4.000 metri di altitudine, in perfetta salute, senza problemi di freddo. Da noi, se non becca una gelata, è un miracolo, e poi è talmente cagionevole di salute che basta un giro di aria fredda per farla ammalare. Ora l'ho capito e ve lo dico. Quando l'albicocco dall'Asia centrale è migrato verso l'Asia minore, si è adattato a zone più calde. I mercanti che frequentavano le famose carovaniere della Via della Seta l'hanno diffuso in tutto il Mediterraneo. Sfortuna volle, per noi friulani si intende, che in Italia siano arrivati tipi di albicocco adatti agli ambienti caldi del Basso Lazio e della Campania, dove i ricchi romani avevano le loro aziende agricole e le loro dimore di campagna. Risultato di questa storia è che da noi l'albicocco male si adatta al clima piovoso e ai ritorni di freddo in primavera. Detto questo, non è che l'albicocco proprio non si possa coltivare. Lo coltiva con successo una famiglia di Fossalon di Grado in una zona di bonifica assegnata un tempo a profughi istriani. Il clima è mitigato dalla vicina laguna di Grado e tutto sommato il frutteto produce normalmente quasi tutti gli anni. Il frutto poi è meraviglioso, soprattutto se raccolto in pianta a maturità di consumo. Oggi, oltre alle vecchie varietà campane e a qualche varietà dell'Appennino imolese, abbiamo a disposizione una serie di nuove varietà a frutto grosso con buccia di colore arancio carico brillante che maturano tra giugno e agosto, allungando così il calendario di raccolta che fino a qualche anno fa era ridotto ai mesi di giugno e inizio luglio. Se qualcuno vuole provare, le varietà sono soprattutto neozelandesi o francesi, si chiamano Aurora, Kyoto, c'è poi la serie Cot, la serie Carmingo, con le bellissime Faralia e Farbalì e altre ancora. Buona fortuna a chi vuole imbarcarsi con l'albicocco. Sara Bosco è già una firma di vita nei campi e pochi giorni fa ha discusso brillantemente la sua tesi di laurea sulle nuove pratiche in orticoltura per la riduzione della torba e della plastica nell'allevamento delle giovani piantine. Oggi per la rubrica dell'università iniziamo una serie di contributi con recenti tesi di laurea in tema orticolo, seguite dal chiarissimo Costantino Cativello, firma storica della nostra trasmissione. La mia tesi affronta il problema della riduzione dell'impiego della torba e della plastica monouso nella coltivazione di giovani piante da orto. Il nostro studio aveva due obiettivi: da un lato quello di ricercare dei materiali leganti in grado di aggregare il cubetto in modo efficiente senza effetti fitotossici alle piante, e dall'altro quello di valutare dei materiali alternativi alla torba che miscelati in diverse proporzioni potessero avere delle buone caratteristiche nella preparazione di cubetti. Attualmente infatti c'è una graduale riduzione dell'utilizzo della torba, soprattutto di quella più decomposta, in quanto le varie torbiere sono localizzate sempre più lontano e quindi c'è un aumento dei costi di trasporto. I substrati che sono stati impiegati sono stati tre: uno costituito da sola torba, impiegato come testimone, e due substrati innovativi che invece contenevano anche midollo di cocco. I leganti sperimentati sono stati 5, sono per lo più dei sottoprodotti di lavorazioni agroindustriali e sono biodegradabili. La specie invece che è stata scelta per questo studio è stata la lattuga, in particolare la tipologia Batavia, in quanto ha un rapido sviluppo. Questa coltivazione in cubetti non richiede l'impiego dei packaging plastico monouso, ma permette di impiegare dei contenitori ad uso ripetuto, per lo più in polipropilene, contribuendo così all'impatto ambientale delle produzioni. Ogni tesi era rappresentata quindi da una particolare combinazione tra substrato e legante, e inoltre la prova è stata divisa in, diciamo, in due sezioni, in quanto una parte prevedeva la semina della lattuga nei cubetti, nell'altra invece i cubetti sono stati coltivati in assenza della plantula. Questi cubetti, una volta che hanno portato la lattuga a pieno sviluppo, sono stati sottoposti a diverse valutazioni per definire lo sviluppo dell'apparato radicale e dell'apparato fogliare delle piantine, ma anche per valutare l'integrità del cubetto stesso. Nel complesso di tutte le analisi, il legante, il Bondafix PVX53, è stato quello che ha ottenuto i risultati migliori, in particolare quando miscelato col substrato Semina Special Black B40. Questo abbinamento di legante substrato inoltre è stato sottoposto a una prova direttamente presso uno dei più grandi vivai italiani, che è il vivaio Gremizzi. In questo caso la sperimentazione ha riguardato decine di migliaia di cubetti e i risultati sono stati comunque incoraggianti. New Entry oggi per Vita nei Campi, con una rubrica che si occuperà del ruolo degli ecosistemi agricoli e forestali e della perdita di biodiversità correlati al cambiamento climatico. La conduce Silvia Stefanelli, dottore forestale con un master in economia ambientale, che da 10 anni si occupa delle tematiche della foreste, del clima e del cambiamento. Oggi ci parlerà delle scelte alimentari nella salute del pianeta e il ruolo che noi consumatori tutti possiamo avere in questo sistema. Silvia, cominciamo. Il ruolo degli ecosistemi agricoli e forestali, secondo uno studio delle Nazioni Unite del 2018, arriva ad incidere fino al 38% a livello globale su tutte le emissioni, considerando il cambiamento d'uso del suolo, considerando la trasformazione del cibo, anche i rifiuti. Quindi da questo dato capiamo che il cambiamento climatico non è solo un problema di energia, trasporti, ma è anche un problema di alimentazione, come ci alimentiamo. E in questo ambito il peso della carne, degli allevamenti intensivi è molto importante. Tanto è vero che, facendo un esempio, in particolare legato agli allevamenti bovini intensivi e alla carne rossa, l'80% della deforestazione in Sud America è legata alla creazione di pascoli e alla produzione di soia, di mangimi usati negli allevamenti intensivi. Ma che cosa possiamo fare? La risposta non è smettere di mangiare carne, ma consumarla in modo diverso e in minore quantità. Mediamente in Europa, anche in Italia, un individuo mangia 80 kg di carne all'anno. Sono stati fatti degli studi sia sulla salute e sia sul clima che, con una dieta di 60-70 grammi di carne al giorno, quindi all'incirca meno della metà di quello che consumiamo adesso, noi possiamo prenderci cura, oltre che della nostra salute, anche del pianeta. Cosa possiamo fare noi come consumatori? E qui in Friuli Venezia Giulia c'è qualche comportamento virtuoso che va verso questa direzione? Anche qui ci aiutano degli studi che sono fatti da Slow Food, che ha confrontato l'impatto degli allevamenti di piccola scala, spesso con delle razze locali, rispetto a allevamenti intensivi. È risultato che l'allevamento estensivo su piccola scala, con delle razze locali ben adattate, utilizzando anche anche il foraggio, il pascolo locale, ha un impatto meno della metà rispetto all'allevamento intensivo. Istruzioni per l'uso, dunque. Ho un pentalogo per il consumatore. Meno carne e di migliore qualità. Attenzione al prezzo. Il prezzo basso è sinonimo di sfruttamento animale, ma in alcuni casi anche sfruttamento delle persone che vi lavorano. Diamoci un taglio. Non scegliamo solo i tagli migliori. Scegli locale. Spesso, e particolare anche in Friuli, abbiamo molti piccoli allevamenti estensivi, bovini, ma anche l'allevamento caprino. E leggi le etichette. Guardiamo da dove viene la carne. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo con prezzi molto sostenuti. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 19,80 e 20 euro il quintale, IVA esclusa. Il frumento tra 21,10 e 21,40, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 18,50 e 19 euro e la soia tra 48,60 e 48,90. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 3,70 euro e la soia di 14,10 euro il quintale. Le contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine sono pressoché stazionarie, ma con prezzi in leggera salita. L'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono pagate da 1,20 a 1,30 euro il chilo IVA esclusa, le zucchine da 2,60 a 3 euro, la scalola riccia da 2,60 a 2,80, i finocchi e il radicchio rosso tondo da 0,80 a 1 euro, quello di Treviso precoce da 0,90 a 1,30, i cavoli da 1,1 ai 20. I kiwi da 2 a 2,50, le mele golden da 1,70, le clementine da 1,20 a 2 euro, i mandarini da 1,50 a 1,80 e le arance tarocco da 0,90 a 2 euro. Nel settore della pesca l'andamento delle condizioni meteo sono discrete, ma i prezzi sono in calo. La cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare e i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 13 a 24 euro il chilo IVA esclusa, le ombrine da 7 a 22, i latterini da 8 a 11, le sogliole da 4 a 20, le seppie da 8 a 12, i calamari e i calamaretti da 14 a 18, le canoce da 2 a 10, le orate da 5 a 12, le capesante da 10 a 13, i rombi da 22 a 28 e i folpi da 7 a 12 euro. Infine, nel settore degli avi cunicoli si segnalano nuovi cenni di pesantezza, con i poli a terra pagati tra 0,99 e 1,01 il chilo IVA esclusa, le anatre tra 2,30 e 2,34, le faraone da 2,20 e 2,30, i tacchini maschi da 1,32 e 1,34, i conigliotti di 1,5 kg tra 2,44 e 2,50. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Sergio Nordio, diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Gennaio, dopo le intense nevicate dei primi giorni, è stato poi caratterizzato da temperature abbastanza basse, specie sulla zona montana. Le temperature medie, infatti, sono state inferiori fra 2 gradi e 2 gradi e mezzo rispetto alla norma. E negli ultimi 10 giorni l'anomalia è stata più marcata, fra i 4 e i 5 gradi in meno. Su pianure costa, invece, le temperature sono in linea col normale. Quindi il freddo intenso che si sta osservando sulla zona montana, con temperature minime che hanno passato anche in meno 23 gradi a Fusine, è dovuto anche al forte innevamento. Fino a martedì saremo interessati in quota da correnti settentrionali fredde, solo a tratti un po' più umide, con tempo stabile e temperature basse, ma su pianura e costa probabilmente inizieranno a essere presenti anche nubi basse e foschie. Mercoledì la nuvolosità si farà più consistente dalla costa alle prealpi, con maggiore umidità e foschie. Le temperature risaliranno un po', specie le minime notturne. Giovedì e venerdì è probabile un peggioramento, con piogge da moderate ad abbondanti su pianura e costa, vento da sud moderato e di nuovo nevicate anche abbondanti sulla zona montana, a partire dai 500 metri circa, possibili però anche a fondovalle. Nella fine della settimana è possibile che le precipitazioni si prolunghino ancora con un nuovo abbassamento delle temperature, ma essendo previsioni ancora lontane è opportuno, come consigliamo sempre, seguire gli aggiornamenti. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano. Sant'Antoni da Barbe Blanche, sanno pluf la nef no mance, ovvero a Sant'Antonio Abate il 17 gennaio, se non piove, la neve non manca, a sottolineare il cattivo tempo del periodo. Coordinamento tecnico di Daniele Apostu, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?